È la terza volta che succede. Ogni volta è una nuova emozione e quest'anno, ovunque voi siate, ve la trasmetteremo. Lunedì 9 ottobre, a partire dalle 21, in diretta dalla libreria Mondadori Multicenter di Milano, in via Marghera, puntata speciale de La Rosa Purpurea con Giorgio Faletti, che presenterà il suo nuovo libro, Fuori da un evidente destino. Per maggiori informazioni, www.radio24.it.